Test B1. Ascoltare. Prova 1. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte. 1. Salve, avete una mappa della città? Devo andare in via Roma. Sì, ecco. In questa cartina può vedere che via Roma è piuttosto vicina. In metropolitana ci vogliono pochi minuti. Sì, vedo, ma preferisco andare in taxi. Può chiamare un taxi? Certo. 2. Buongiorno, mi chiamo Alberta Vinti. Ho prenotato un'automobile online. Ecco il voucher. Sì, ha un documento, per favore? Ecco a lei. Senta, vorrei tenere l'auto un giorno in più. Va bene. Può riconsegnarla il giorno 23 febbraio, entro le 12. Il costo per il giorno aggiuntivo è 10 euro ogni ora, passato il terzo giorno. 3. Giovanni, hai già comprato i biglietti per Milano? No, li faccio stasera, online. Ma le prenotazioni online non funzionano mai bene. Io ho sempre problemi. Senti, andiamo alla stazione e prendiamo i biglietti lì. Va bene, andiamo. Così prima di tornare a casa mangiamo qualcosa nella pizzeria lì vicino. 4. Ciao Nina, sono Piero. Sono riuscito a trovare i biglietti per il concerto di stasera. Che bello! Quanti biglietti hai trovato? Ne ho trovati 3. Così può venire anche la tua amica. Va bene, la chiamo subito, sarà molto contenta. A che ora comincia lo spettacolo? Alle 9. 5. Buongiorno, vorrei comprare dei prodotti tipici di questa zona. Sì, che cosa preferisce? Abbiamo dei dolci, dei formaggi, dei vini e naturalmente un olio eccezionale. Sì, l'olio è una buona idea. Ha delle confezioni piccole? Certo, queste sono le confezioni regalo più piccole che abbiamo. Bene, ne prendo 3. 6. Siete pronti? Avete deciso cosa ordinare? Sì, grazie. Per noi un antipasto della casa e una grigliata mista. Bene, avete scelto anche un contorno? Sì, un'insalata mista e delle patate al forno. E da bere? Una minerale effervescente, grazie. Grazie a voi. 7. Buongiorno, signora Belli. Chiamo per dirle che può ritirare il suo abito da sera. La sarta lo ha finito stamattina. Grazie, vengo subito allora. Scusi, potrebbe venire di pomeriggio. Ora la sartoria sta per chiudere e riapriremo alle 3:30. Certo, non ci sono problemi, verrò a quell'ora. Grazie. Grazie a lei e a più tardi. Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte. 1. Salve, avete una mappa della città? Devo andare in via Roma. Sì, ecco. In questa cartina può vedere che via Roma è piuttosto vicina.